farfalle e farfuglia frottole su falle. Non c'è male, fare, saper fare, far sapere, non far finta, non strafare, non finire male, non firmare nulla prima del tuo funerale. Falli fessi, falli eretti, falli a fette, e che fai? Non le fossi, ste etichette. Fossi furbo, forse forniresti le risposte, forse resti le porte fantastiche, fuse in fronte. Non affanneresti all'alfa, adesso annaffiati di nafta, fumati in un'altra, fiamme fluorescenti, falli, don't fire. Forse la cassetta, finiscili, sfiniscili, finché non smette, puniscili, colpiscili forte. Chi vuol far fallire, far franare, affievolire il fuoco, no. Fai i conti con le fiamme dell'inferno e fai il fenomeno. Finisce fango questa terra, finti funzionari fingono di possederla. Fanno figli come foglie forte dei forti poteri che fanno fottere. Pillole blu, discorsi fragili come le favole.